Letture di Radio 24. Negli ultimi 10 anni sono triplicati gli italiani che usano la bicicletta per spostarsi in città. Ma le amministrazioni comunali fanno ancora troppo poco per incentivare l'utilizzo di questo mezzo e contribuire alla riduzione di inquinamento e traffico. Se non è capace di guidare la bicicletta, se ne stia a casa. Con questa ingiunzione non proprio cortese, una signora sulla cinquantina chiude un breve scambio con un uomo più o meno della sua età, reo di aver invaso la corsia opposta della ciclabile. Che due ciclisti si mandino a quel paese è un evento raro, perché i pedalatori, come ogni minoranza, tendono a solidarizzare, a manifestare complicità e comprensione reciproca. Intorno a sé hanno troppi nemici per permettersi di litigare tra loro. Teatro dell'alterco in questione, dunque, è una via di Ferrara, dove la bicicletta è usata dal 90% dei cittadini. Qui i ciclisti non hanno complessi di inferiorità e può capitare che si comportino come degli automobilisti qualsiasi, incluso nel prendersi a male parole. Ma quella di Ferrara è una situazione eccezionale. Il nostro paese non è affatto a misura di pedali, nonostante, secondo un'indagine del 2011 commissionata da Legambiente, dal 2001 gli italiani che si spostano regolarmente in bici nelle città sono triplicati, arrivando al 9%. L'intensa voglia di bicicletta spiega anche il successo della campagna Salva Ciclisti, culminata nella manifestazione a Roma di sabato 28 aprile, che ha radunato spontaneamente persone diversissime e che chiede una cosa semplice: far sì che nelle nostre città la bici la possa usare anche chi non pratica gli sport estremi. Vien dunque da chiedersi perché manchino amministratori desiderosi di raccogliere un facile e ampio consenso, oltre che perseguire obiettivi concreti come la diminuzione dell'inquinamento e del traffico. Non è però solo per risolvere questi problemi che l'uso della bicicletta merita di essere incentivato. Innanzitutto, più pedalate in Europa possono significare meno fame nel mondo. Per combattere le emissioni nocive delle automobili, infatti, l'Unione Europea vuole che il 10% dell'energia per il trasporto provenga da fonti rinnovabili, vale a dire, nella stragrande maggioranza dei casi, dai cosiddetti biocarburanti, combustibili che derivano da cereali e altri vegetali. Solo che per produrli ci vuole molto terreno, che si va a cercare nei paesi più poveri del mondo, creando problemi a persone che già faticano ad alimentarsi adeguatamente. ActionAid, impegnata in una campagna continentale sui biocarburanti, sottolinea infatti che per ricavare 50 litri di bioetanolo, cioè per fare il pieno a una macchina, servono 232 kg di mais, che basterebbero per sfamare un bambino per un anno intero. Eppure c'è un'alternativa molto più efficace. Secondo un'analisi della Federazione Europea dei Ciclisti, eseguita alla fine del 2011, se ogni europeo sostituisse 5 chilometri di quelli che fa ogni giorno in auto con altrettanti in bicicletta, metà dell'abbattimento dell'inquinamento che il vecchio continente intende raggiungere entro il 2060 sarebbe subito realizzato. Che la bicicletta sia uno strumento formidabile contro la fame e la povertà lo dimostra anche l'organizzazione statunitense World Bicycle Relief, la cui missione suona decisamente bene: garantire indipendenza e livello di vita dignitoso attraverso il potere della bici. World Bicycle Relief opera soprattutto in Africa, dove in 5 anni ha distribuito quasi 102.000 biciclette, contribuendo, secondo quanto dichiara sul proprio sito, a cambiare la vita di oltre 508.000 persone. L'impatto sulle vite dei più poveri, una rivoluzione industriale nella vita di un singolo, come sostiene il presidente dell'organizzazione, è descritto con pochi numeri. Grazie alla bicicletta, una persona trasporta 5 volte il peso che porterebbe a piedi, percorre una distanza 4 volte superiore, risparmia quasi 2 ore ogni 10 chilometri percorsi. Che in Africa, dove l'alternativa è il camminare, il mezzo a pedali bicicletta faccia risparmiare tempo, è evidente. Ma questo oggi accade anche in Italia, dove pure le alternative sono diverse. Nel marzo scorso, a Milano, si è svolto il Trofeo Tartaruga. Su una distanza di 7 chilometri, a metà mattina, si sono fronteggiati uno scooter, un taxi, un'auto privata, la metropolitana e una bici. Quest'ultima ha trionfato, percorrendo il tragitto in 11 minuti, seguita dallo scooter con 19, dalla metro con 21, e poi dalle 2 auto, quella pubblica con 23 e quella privata con 30. A quanto risulta, tutti i mezzi hanno rispettato il codice. Quindi per il ciclista nessuna scorciatoia sui marciapiedi o avventure in contromano. I numeri dimostrano dunque che usare la bici conviene, tanto al nord quanto al sud del pianeta. Salvare i ciclisti è pertanto una buona idea, perché i ciclisti salvano il mondo, o almeno lo rendono un po' migliore. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Daniele Scaglione dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Il governo si prepara a varare le prime proposte per ridurre gli sprechi nella spesa pubblica, ma non riesce nemmeno a censire quelli che indubbiamente sono i più grandi sprechi di denaro pubblico, le opere incompiute. Il paesaggio italiano è costellato di viadotti monchi e lasciati a metà, di ecomostri di cemento con i tondini rugginosi, di rovine che sembrano lasciate da alieni impazziti. Sembrerà strano, ma non siamo nemmeno in grado di sapere quante siano queste opere pubbliche incompiute, per poi decidere quali abbattere, quali completare, quali lasciare monumento allo spreco. Chi dice 390? Chi 320? Ma si tratta soltanto di stime. Il governo Monti pareva intenzionato a risolvere questa lacuna e nel decreto Salva Italia è stato inserito un articolo che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, un'anagrafe dello spreco articolata su base regionale, in cui si devono indicare le percentuali di completamento o le possibili destinazioni alternative. Se non che il Ministero aveva 3 mesi di tempo per stabilire le procedure di questa anagrafe. Il decreto è diventato legge il 23 dicembre. I 3 mesi sono scaduti il 23 marzo e non è successo nulla. Anche l'anagrafe è incompiuta. La diga dell'Alto Esero, nella provincia di Cosenza, è stata definita nell'ottobre del 2010 dal presidente della Calabria, Scopelliti, opera essenziale per lo sviluppo. Purtroppo si è deciso di farla nel 1979. I lavori sono cominciati e subito bloccati nel 1981 perché, ahimè, una frana rendeva impossibile agganciare il corpo di cemento della diga al costone montano. Invece di chiudere il discorso, i lavori continuano con varianti progettuali. Nessuno sa quanto si sia speso. Si parla di 950 milioni di euro. Nella stazione di Matera c'è l'edificio, ma non c'è la linea ferroviaria. Nel 1981 si decise di realizzare la linea ferroviaria tra Matera e Ferrandina. Peccato che durante i lavori di scavo di una galleria si scoprirono sorgenti di acqua e un deposito di gas naturale. La stazione è stata completata, la ferrovia è bloccata. Ci è costato 500 miliardi di vecchie lire. Per quanto riguarda la superstrada senza fine, l'idea era quella di tagliare gli Appennini tra Ancona e Perugia. I lavori sono cominciati nel lontano 2001, ma non sono finiti come previsto nel 2004. Il tracciato prevede molti trafori, ma a quanto pare una galleria è stata completamente sbagliata. Al 2012 sono pronti soltanto alcuni tratti. Stesso discorso per il quadrilatero Umbro-Marchigiano, che dovrebbe costare 2,2 miliardi. Manca ancora la metà dei fondi. Della variante di valico, 62,5 chilometri tra Sasso Marconi e Barberino, se ne parla da 20 anni. È stata deliberata nel 1998, i lavori cominciati nel 2002. L'apertura al traffico era prevista per il 2009, ma adesso si parla del 2013. Il costo è quasi raddoppiato. Adesso si stima 3,7 miliardi di euro e secondo una perizia dei costruttori della galleria di Ripoli, Toto Costruzioni, una frana di 40 milioni di tonnellate ha già danneggiato il profilo del traforo e sono a rischio anche i piloni di un viadotto della vecchia Autosole. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Roberto Giovannini, Il paese delle opere mai finite, dalla stampa del 14 maggio.